sono piena di gratitudine. Guardo tutto quello che ci circonda e che ci avvolge e non posso far altro che esserne grata.